Le piacevoli notti. Libro primo di Giovan Francesco Straparola. Quinta e ultima favola della quarta notte. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Roberto Cofini. La signora, voltato il viso verso Leonora, a cui l'ultimo ragionamento della presente notte toccava, le impose che donnescamente alla sua favola desse cominciamento, la quale vezzosamente così incominciò. Favola quinta. Flamminio Veraldo si parte da Ostia e va cercando la morte. E non la trovando, nella vita si incontra, la qual gli fa vedere la paura e provare la morte. Sono molti che con ogni loro studio e diligenza attentamente vanno cercando alcune cose, le quai, dopo che trovate le hanno, non vorrebbero averle trovate. Anzi, sì come il demonio l'acqua santa, le fuggono a più potere. Il che avvenne a Flamminio, il quale, cercando la morte, trovò la vita, che gli fe vedere la paura e la morte provare, siccome per la presente favola poterete intendere. In Ostia, città antica, non molto lontana da Roma, sì come tra volgari si ragiona, fu già un giovane, piuttosto semplice e vagabondo, che stabile ed accorto, e Flamminio Veraldo era per nome chiamato. Costui più e più volte aveva inteso che nel mondo non era cosa alcuna più terribile, più paventosa dell'oscura ed inevitabile morte, perciò che ella, non avendo rispetto ad alcuno, o povero o ricco che egli si sia, a niuno perdona. Laonde, pieno di maraviglia, tra se stesso determinò al tutto di trovare e vedere che cosa è quello che da mortali morte s'addimanda. Ed, addobbatosi di grossi panni e preso un bastone d'un forte cornio, ben afferrato in mano, da Ostia si partì. Avendo già Flamminio molte miglia camminato, giunse ad una strada, nel cui mezzo vide un calzolaio in una bottega, che calzari e uosa faceva, il quale, quantunque grandissima quantità di fatti ne avesse, pur in farne degli altri tuttavia s'affaticava. Flamminio, accostatosi a lui, disse: «Iddio vi salvi, maestro!» A cui il calzolaio: «Siete benvenuto, figliuol mio!» A cui Flamminio, replicando, disse: «E che fate voi?» «Io lavoro», rispose il calzolaio, «e stento per non stentare, eppure io stento e m'affatico per far di calzari», disse Flamminio. «E per far che? Voi tanti n'avete, e da che farne di più?» A cui rispose il calzolaio: «Per portarli, per venderne per sostentamento e di me e della mia famiglia, e da ciò che, quando sarò vecchio, mi possi sovvenire del denaro guadagnato». «E poi?» disse Flamminio. «Che sarà?» «Morire», rispose il calzolaio. «Morire?» replicando, disse Flamminio. «Sì», rispose il calzolaio. «Maestro mio», disse allora Flamminio, «mi sapreste voi dire che cosa è questa morte?» «In vero no», rispose il calzolaio. «L'avete voi già mai veduta?» disse Flamminio. «Io né la vidi, né vederla, né provarla mai vorrei. Che dicesi da tutti ugualmente che ella è una strana e paventosa bestia?» «Allora», disse Flamminio, «me la sapreste voi almeno insegnare, o dirmi dove ella si trovi, perciò che giorno e notte, per monti, per valli, per stagni la vo cercando, e novella alcuna di lei non posso persentire». A cui rispose il calzolaio: «Io non so dove la stia, né dove ella si trovi, né come fatta sia, ma andatevene più innanzi, che forse la troverete». Tolta dunque licenza Flamminio e partitosi dal calzolaio, andossene più oltre, dove trovò un folto e ombroso bosco, ed entratovi dentro vide un contadino che aveva tagliate molte legna da bruciare, e da più potere ne andava tagliando. E salutatosi l'uno e l'altro, disse Flamminio: «Fratello, che vuoi far tu di tanta legna?» Al cui il contadino rispose: «Io l'apparecchio per fare del fuoco questo verno, quando saranno le nevi, i ghiacci e il bruma malvagio, acciò che io possa scaldare me e i miei figliuoli, e lo soprabbondante vendere per comprare pane, vino, vestimenti ed altre cose necessarie per lo viver quotidiano, e così passare la vita nostra sino alla morte.» «Deh, per cortesia», disse Flamminio, «mi sapresti insegnare dove si trovi questa morte?» «Certamente no», rispose il contadino, «perciò che io non la vidi mai, né so dove ella dimori. Io stanzi in questo bosco tutto il giorno, ed attendo allo esercizio mio, e pochissime persone passano per questi luoghi, e manco ne conosco.» «Ma come potrò far io a trovarla?» disse Flamminio. A cui il contadino rispose: «Io non ve lo saprei dire, nemmeno insegnare, ma camminate più innanzi, che forse in lei vi incapperete.» E tolta licenza dal contadino si partì, e tanto camminò, che giunse ad un luogo dove era un sarto, che aveva molte robe su per le stanghe, ed un fondaco di varie e bellissime vestimenta pieno. A cui disse Flamminio: «Iddio sia con voi, maestro mio!» A cui lo sarto: «E con voi sia ancora!» «E che fate voi?» disse Flamminio, «di sì belle e ricche robe e sì onorate vestimenta? Sono tutte vostre?» A cui rispose il maestro: «Alcune sono mie, alcune di mercanti, alcune di signori, ed alcune de diverse persone.» «E che ne fanno di tante?» disse il giovane. A cui lo sarto rispose: «Le usano nei diversi tempi.» E mostrandogliene diceva: «Queste lo state, quelle lo verno, e quest'altre da mezzo tempo, e quando l'una e quando l'altra si vestono.» «E poi che fanno?» disse Flamminio. «E poi», rispose il sarto, «vanno così scorrendo sino alla morte.» Sentendo nominare Flamminio la morte, disse: «Dolce maestro mio, mi sapreste voi dire dove si trovi questa morte?» Rispose lo sarto, quasi d'ira acceso e tutto turbato: «O figliuolo mio, voi andate addimandando le strane cose. Io non ve lo so dire né insegnare dove si trovi, né di lei giammai pur penso, e chiunque me ne ragiona di lei grandemente mi offende. Però ragioniamo d'altro, o partitevi di qua, che io sono nemico dei tai ragionamenti.» E preso commiato da lui si partì. Aveva già scorso Flamminio molti paesi, quando giunse ad un luogo deserto e solitario, dove trovò uno eremita con la barba squallida, e dagli anni e dal digiuno tutto attenuato. Aveva la mente sola alla contemplazione, e pensò che egli nel vero fosse la morte. A cui Flamminio disse: «Voi siete il ben trovato, padre santo.» «E voi il benvenuto, figliuolo mio», rispose lo eremita. «O padre mio», disse Flamminio, «e che fate voi in questo alpestre ed inabitabile luogo, privo d'ogni diletto ed ogni consorzio umano?» «Io mi sto», rispose lo eremita, «in orazioni, in digiuni, in contemplazioni.» «E per far che?» disse Flamminio. «Oh, perché, figliuolo mio, per servire a Dio e macerar questa misera carne», disse l'eremita, «e per far penitenza di tante offese fatte all'Eterno e immortale Dio e dal vero figliuolo di Maria, e finalmente per salvar quest'anima peccatrice, acciò che, quando verrà il tempo della morte mia, io gliela renda monda d'ogni difetto, e nel tremendo giorno del giudizio, per grazia del mio Redentore, non per meriti miei, mi faccia degno della felice e trionfante patria, ed ivi gode beni di vita eterna, alla quale Dio tutti ci conduchi.» «Dolce padre mio, ditemi un poco», disse Flamminio, «se non v'è noia, che cos'è questa morte, e com'è fatta ella?» A cui lo santo padre: «Oh, figliuol mio, non ti curar di saperlo, perciò che ella è una terribile e paventosa cosa, e s'addimanda da sapienti ultimo termine dei dolori, tristezza dei felici, desiderio dei miseri e fine estremo delle cose mondane. Ella divide l'amico dall'amico, separa il padre dal figliuolo e del figliuolo dal padre, spartisce la madre dalla figliuola e la figliuola dalla madre, scioglie il vincolo matrimoniale e dal fine disgiunge l'anima dal corpo, e il corpo, sciolto dall'anima, non può più operare, ma viene sì putrido e sì puzzolente che tutti l'abbandonano e come cosa abominevole il fuggono. «Avetela mai veduta voi, padre?» disse Flamminio. «Ma di no», rispose l'Eremita. «Ma come potrò io fare di vederla?» disse Flamminio. «Ma se voi desiderate, figliuolo mio», disse l'Eremita, «di trovarla, andatevene più oltre, che voi la troverete, perciò che l'uomo, quanto più in questo mondo cammina, tanto più s'avvicina a lei». Il giovane, ringraziato che ebbe il santo padre, e tolta la sua benedizione, si partì. Continuando adunque Flamminio il suo viaggio, trapassò molte profonde valli, sassose montagne ed inospiti boschi, vedendo vari paventosi animali, dimandando a ciascuno se egli era la morte, a cui tutti rispondevano non essere lei. Ora, avendo scorso molti paesi e vedute molte strane cose, finalmente giunse ad una montagna di non picciola altezza, e quella trapassata discese giù in una oscura e profondissima valle, chiusa di alte grotte, dove vide una strana e mostruosa fiera, la quale coi suoi gridi faceva rimbombare tutta quella valle, a cui Flamminio disse: «Chi sei tu? Olà, saresti mai tu la morte?» A cui la fiera rispose: «Io non sono la morte, ma segui il tuo cammino che tosto la troverai». Udita Flamminio la desiderata risposta, molto s'allegrò. Era già il miserello, per la lunga fatica e duro strazio per lui sostenuto, stanco e semimorto, quando come disperato giunse ad un'ampia e spaziosa campagna, ed asceso uno dilettevole e fiorito poggetto, non molto eminente, e remirando or quinci or quindi, vide le mura altissime di una bellissima città, che non era molto lontana, e postosi a camminare con frettoloso passo, nel brunire della sera ad una delle porte pervenne, la quale era adornata di finissimi e bianchi marmi, ed entratovi dentro, con licenza però del portinaio, nella prima persona che egli s'abbatté, si incappò in una vecchiarella molto antica e piena di grand'anni, di volto squallida, ed era sì macilente e magra, che per la sua macrezza tutte le ossa, ad una, si arrebbero potute annoverare. Costei aveva la fronte rugosa, gli occhi biechi, lagrimosi e rossi, che la porpora somigliavano, le guance crespe, le labbra riversate, le mani aspere e callose, il capo e la persona tutta tremante, lo andar suo curvo e dei panni grossi e bruni addobbata. Oltre ciò, ella teneva dal lato manco una affilata spada e nella destra mano un grosso bastone, nell'estremità del quale eravi una punta di ferro, fatta in guisa di un trimanino, sopra del quale alle volte si riposava. Appresso questo, ella aveva dietro le spalle una grandissima bolgia, nella quale riservava ampolle, vasetti ed alberelli tutti pieni di vari liquori, unguenti e impiastri, a diversi accidenti appropriati. Veduta che ebbe Flamminio questa vecchia disdentata e brutta, immaginossi che ella fosse la morte che egli cercando andava, ed accostatosi a lei, disse: «Madre mia, iddio vi conservi!» A cui con chioccia voce la vecchiarella rispose: «Ancora te, figliuolo mio, iddio salvi e mantenga!» «Sareste voi per avventura la morte, madre mia?» disse Flamminio. «No!» rispose la vecchiarella. «Anzi, io sono la vita! E sappi che io mi trovo aver qua dentro in questa bolgia, che io porto dietro le spalle, certi liquori ed unzioni che, per gran piaga che l'uomo abbi nella persona, io con amorevolezza la risano e saldo. E per grandoglia che egli parimenti si senta, in picciolo spazio, d'ora levoli ogni dolore. disse allora Flamminio, dolce madre mia, mi sapreste voi insegnare dove ella si trovi? E chi sei tu, così instantemente mi dimandi? Disse la vecchiarella, a cui Flamminio rispose, io sono un giovanetto, che già sono passati molti giorni, mesi, anni che la vo cercando, né mai ho potuto trovare persona in luogo alcuno che me l'abbia saputa insegnare. Laonde, se voi siete quella, ditemelo per cortesia, perciò che assai desidero e di vederla e di provarla, acciò che io sappia se ella è così di forma paventosa, siccome da ciascuno è tenuta. La vecchiarella, udendo la sciocchezza del giovane, dissegli, quando ti aggrada, figliuolo mio, farottila vedere quanto ella è brutta e quanto paventosa ancora provare. A cui Flamminio, madre mia, non mi tenete più a bada, ornai fate che io la veggia. La vecchiarella, per compiacerli, lo fece ignudo spogliare. Mentre che il giovanetto si spogliava, ella certi suoi empiastri a diverse infermità opportuni incorporò e, preparato il tutto, dissegli, chinati giù, figliuolo mio. Ed egli ubbidiente s'inchinò. Piega la testa e chiudi gli occhi, disse la vecchia, e così fece. Né appena aveva fornito di dire che prese la coltella che dal lato teneva ed in un colpo il capo gli spiccò dal busto. Dopo, presa in mantinente la testa e posatala sopra il busto, l'impiastracero di quegli empiastri che preparati aveva e con agevolezza il risanò. Ma come il fatto andasse, dir non so, o che fusse per la prestezza della maestra il ritornare il capo al busto, o perché ella astutamente il facesse, la parte della testa posteriore mise nell'anteriore. Onde Flamminio, guatandosi le spalle e le reni e le grosse natiche scolpite in fuori che per addietro vedute non aveva, in tanto tremore e pavento si puose che non trovava luogo dove nascondere si potesse, e con dolorosa e tremante voce diceva la vecchia, oimè madre mia, ritornatemi come prima, ritornatemi per l'amore di Dio, perciò che io non vidi mai cosa più diforme né più paventosa di questa. Deh, removetemi, vi prego, da questa miseria nella quale inviluppato mi veggio. Deh, più non tardate, dolce madre mia, porgetemi soccorso, che agevolmente porgere me lo potete. La vecchiarella astuta taceva, fingendo tuttavia di non essersi avveduta del commesso fallo, e lasciavolo ramaricarsi e cuocersi nel suo unto. Finalmente, avendolo così tenuto per spazio di 2 ore, e volendoli rimediare, da capo il fece inchinare, e messa mano la tagliente spada, la testa gli troncò dal busto. Dopo, presa la testa in mano, ed accostatala al busto ed unta con i suoi impiastri, nel primo suo esser ritornare il fece. Il giovane, vedendosi ridotto nel pristino suo stato, dei suoi panni si rivestì, ed avendo veduta la paura, e per esperienza provato quanto brutta e paventosa era la morte, senz'altro commiato prendere dalla vecchiarella, per la più breve e dispedita via che egli seppe puote, ad Ostia se ne ritornò, cercando per lui innanzi la vita e fuggendo la morte, dandosi a migliori studi di quello che per lo addietro fatto aveva. Fine della storia. Restava a Leonora proporre il suo enimma, onde tutta festevole disse, per un superbo e spazioso prato, di verde erbette e vaghi fiori adorno, passan 3 ninfe per divino fato, né si ferman giamai notte né giorno. L'una la rocca tien dal manco lato, l'altra col fuso ai piedi fa soggiorno, la terza con il brando sta da sezzo, e spesso il debil filo tronca nel mezzo. Il presente enimma con molta agevolezza fu da tutti inteso, perciò che il superbo e spazioso prato è questo mondo in cui dimoriamo tutti. Le ninfe sono le 3 sorelle, cioè Cloto, Lachesis e Atropos, le quali, secondo la poetica finzione, denotano il principio, il mezzo ed il fine della vita nostra. Cloto, che tiene la rocca, denota il principio della vita. Lachesis, che fila, dimostra il tempo che noi viviamo. Atropos, che rompe il filo già per l'Achesis sfilato, disegna l'inevitabile morte. Già il vigilante gallo dedicato a Mercurio aveva col suo canto dato segno della vicina aurora, quando la signora ordinò che a favoleggiare si imponesse fine, e tutti se ne andassero agli loro alloggiamenti, ritornando però senza fallo nella sequente sera al concistorio, sotto quella pena che a sua signoria più convenevole parerà. Fine della quinta e ultima favola della quarta notte. Fine della quarta notte. Registrazione di Roberto Cofini.